Ora, Edoardo, continuiamo un po' a parlare, ma soprattutto, diciamolo francamente, approfittiamo della tua presenza che stai qua per noi persone che di vino ne capiscono poco e niente. Che cosa suggerisci a noi che andiamo al ristorante, se non proprio al supermercato, vogliamo fare, non dico bella figura perché il portafoglio è sempre quello, ma una discreta figura. Su cosa ci possiamo buttare, o perlomeno un modo per capire che cosa prendere o cosa no, cosa evitare. Questo è un discorso molto ampio. Diciamo, può essere ricollegato un po' alla ristorazione romana, che non è che sia la migliore al mondo per eleganza, per qualità, Che per faccio, signor? Lascio? servizio. Il discorso del sapere cosa ordinare, il discorso è legato alla conoscenza. Noi dovremmo avere già un piccolo bagaglio, no, di conoscenze che poi ci guidano al momento che ci troviamo in un posto a scegliere. Il fatto che anch'io mi trovo in difficoltà spesso quando vado in un'enoteca o in un ristorante, allora non è più una colpa mia, magari, no? Lo Oh, spero. chiama un altro sommelier, va, che questo non mi sta bene. No, o più è una colpa, diciamo, a livello di comunicazione, una colpa, tra virgolette, una piccola carenza a livello di comunicazione del posto dove mi trovo. Nel senso, se vado in un'enoteca, magari un'enoteca un po' troppo, un wine bar, Sì. e chiedo che vini ci sono, e mi viene detto c'è un Morellino di Scanzano, c'è una Barbera, c'è, non so, un bianco, uno Chardonnay. Di cosa vuoi, capito? Io alzo le mani, oh. Io a me me lo metti a 10 euro il bicchiere, è preso. Morellino di Scanza, io l'ho sentito. Certo, invece io sto ancora più in difficoltà, nel senso che magari sto con amici e non dico niente, però magari prendo una birra perché vedo che c'è una birra con una marca che conosco, già so che diciamo, è decente. I tuoi amici pensano: ma che cazzo di sommelier è questo? Si Esatto, prende la birra. ma perché a livello comunicativo, se viene nominato il vitigno, è come non dire nulla, perché il vitigno è un qualcosa di vivo, come una persona. Come dire, cioè, essere umano, per dirti. Poi se quello è cresciuto in Francia, è cresciuto a Roma, è cresciuto a Torino, chiaramente è completamente diverso, no? È come parlare di un qualcosa che viene data per neutra, così, no? Come se non avesse nessun rapporto al posto dove è Insomma, stai dicendo cresciuto. che non ci abbiamo speranze. No, bisognerebbe avere altre informazioni, chiedere da dove viene quel vitigno. Cioè, mi dici Chardonnay, che è uno dei vitigni più diffusi al mondo e che dà risultati eccellenti soltanto in alcune zone della Francia. E viene coltivato anche in Italia, ci sono vini costosi a base Chardonnay anche in Italia, però già non hanno quei risultati della Francia. In più, se può venire da qualsiasi posto e che noi non sono state fatte, no, quelle procedure per farlo esprimere al massimo le sue caratteristiche, mi abbiamo una schifezza, Sì. diciamo. Per cui, cioè, prima di chiederla, Cioè, Chardonnay alla fine dici non vuol dire niente in non realtà. vuol dire esattamente niente, non vuol dire esattamente niente, perché Però la persona che fa il vino è quella che conta. E qui non voglio fare un discorso personalistico, individualistico, perché è più lontano diciamo, dalla mia persona, da quello che io penso. Però l'uomo che fa il vino è colui che, diciamo, che è importante, è colui su cui dovrebbe vertere l'attenzione Beh, della sicuro gente. la viticoltura, l'agricoltura in generale e la viticoltura in particolare è una delle attività umane con cui ancora oggi, nel 2011, l'età della tecnologia e tutto quanto, però ancora ci deve essere una forte presenza proprio dell'uomo e del sapere proprio della persona, un sapere comunque antico. Io però ti rilancio a quello che mi hai detto e ti faccio una domanda incredibilmente, diciamo, tecnica, ma proprio per rimanere legato al territorio e al sapere di quel territorio, se io vedo su una bottiglia indicazione geografica tipica, per esempio, o DOC, o ci stanno, cioè, Edoardo, tu lo sai meglio di me, ci stanno 3.000, ormai sulle bottiglie ci scrivono veramente tutto per farti dire che è genuino, che è buono, che è fatto con i metodi vecchi, eccetera, eccetera. C'è qualche cosa che mi può dire, ok, quello mi posso fidare non essendo io un sommelier? Purtroppo, per fortuna, insomma, ci troviamo in Italia per molte cose, purtroppo. Per cui il disciplinare, cioè leggere DOC o DOCG, non è una garanzia di qualità. Non è una garanzia. Infatti, ci sono i super task, ci sono stati, no, nei decenni passati. Non so se l'avete mai sentito nominare, i super task, cioè dei vini prodotti in Toscana che non rientravano nel disciplinare, venivano chiamati vini da tavola. Negli anni 80, e gli americani interessati, no? Il mercato americano è sempre stato molto importante, l'hanno definito super tasca, proprio perché quei produttori appositamente non rientravano nei disciplinari. Paradossalmente in Italia uscire dal disciplinare può essere un discorso di qualità. E questo la dice lunga su come funzionano i disciplinari, i controlli in Italia, purtroppo. Per cui è il singolo produttore, è la persona che ci dà fiducia, quella persona che fa il vino, e quella è una garanzia. Biso, qua non ci salviamo. No, siamo spacciati. Io ho organizzato sta puntata solo per diventare un figo. No, però una cosa, per portarmi ubriacare di classe. Ci tengo una cosa per questa cosa. Abbiamo detto che è la persona, però non è un discorso individualistico, perché spesso è una persona che si tira dietro un territorio, abbiamo usato questo termine, no? C'è un territorio depresso, un territorio in cui la viticoltura sta a livelli bassissimi, un singolo magari molto ricco, c'ha un'intuizione geniale, produce un vino eccezionale e riesce a trainare tutto un territorio. Lì cominciano tutti a fare il vino, è una cosa molto bella, per carità, una crescita, uno sviluppo, però la cosa più affascinante secondo me è quando un territorio, tutti lì uniscono le forze e producono qualcosa tutti insieme. Per cui una piccola garanzia di qualità potrebbe essere il discorso della cooperativa, cioè paradossalmente può dare più garanzie una cooperativa, soprattutto se siamo al nord, in Trentino, in Alto Adige, ma anche nel Lazio, paradossalmente un insieme di persone che si mettono lì e lo fanno può essere una piccola garanzia, questo sia a livello del prezzo che... È già qualcosa, 10.